Oggi ho fatto tardi, però mi sembra strano che solamente noi siamo stati generati dal caso. Questo è un po' da stupida e anche un po' egoista e forse un po' cattolico e poco divertente. Fatto.